Scala! Scala! Qua! Giù, giù! Forte e chiaro mi dai vedere! Ah, che mi merda! Segnale 7, radio 5, benissimo! Anche io, capo! Ti ascolto con le orecchie, capo! Attenzione, già mi la scimmia! Fatti no, vabbè! Forte e chiaro, tu sei 9, quasi 9.30! Vabbè! Ma facciamo tutti i nuovi che scuola a lungo, non so se ti piace, ma è buono veramente. Tu quale mi ascolti, Franco? Quale stava chiamando Carletto? Non so se ti ha chiamato, l'hai risposto, E con questo lui. Aspetta, scusa, ti cosa so? Ah, ok, là. Se no, tutto il numero dice che c'è l'altro, non so, l'ha spento, Prova a Tino. Ciao Fra. Buonasera. Forte il chiasso, sì. Cioè, leggermente più basso il segnale, ma poco a poco, 9.20, 9.25, più o meno, come l'altro, poca differenza. Però la radio è più bella questa. Lo so. Un'altra musica, più curata, si sente che è bella. Ma chi è questo tipo che è morto? Lo conservate voi? Di cosa si è parlato? Di Vigile del Fuoco? No. Questo tipo che è morto, adesso non mi ricordo il cognome. Non lo so, lui non ho sentito niente ancora. Questo 430 come che va? Ah, ma di Svaglia. Com'è? Non funziona ancora, sì. Sì, la matta di Svaglia. La matta su scamma è Svaglia. Non si smentisce mai questa radio, non c'è niente da fare. Ah, mi dico quella che butta, a posto del tuo scippatore. Voi scippatore per dire quella, tutto attaccato in parie. Ah, ma io sono i pompellumbe. I pompelli, i cervatti modulati quasi 30. No, intendo la radio, un bel potente, un bel forte. Guarda, questo, a differenza 140, c'è il potenziometro come 440, ce l'ho a 1.5 neanche. Ah, va benissimo, c'è anche Franco Califfo. Allora Franco Califfo, vieni avanti, Califfo. Ciao Franco Califfo, buonasera, ben ascoltato. Sentivo 7, radio 5. Come sei, fa? Ma al monte? Ah, la tua parte. Infatti mi sembra abbastanza, mettivi nella parte, diciamo, nella parte della questura, dovresti arrivare almeno, io dico, almeno 9.20, 9.30. Ah, sta arrivando bene, fra, è grande, giusto? Va bene, no. Avanti Tino. Bene, sono qua che sto cercando un container se riesco a trovarlo. Solo che qua a Sassari costano un pacco di soldi, che in continente costano 600-700 euro. Un container? Via. Ah. Beh, normale. Quale cosa costano di più? Beh, adesso l'annuncio nei gruppi. Se lo trovo bene, se no vedrò di trovarlo fuori e poi lo farò viaggiare. Boh, adesso vediamo. Via. Come faccio, ho fatto una domanda. Ti ho chiesto se ti piace il pane all'ufa. Sì, l'ho mangiato. Non è vado matto, però già è buono. Adesso, buonissimo. Buono, proprio era strapieno di uva passa. Avanti, Claudio! Ehi, è buono, a me piace un bel pane. Una volta quando vado a comprare il pane, dice, fermi un pane all'uva. Qua l'ho preso in via Grazia dell'Edda, praticamente anni addietro c'era una dove facevano ravioli, sai, pasta fresca. Adesso ho aperto un panificio lì. No, è piccolo come cosa, non è molto grande, però fa pane buono. Poi ce n'è un'altra più su, però guarda una rivendita di Cesaraccio, quello è però. Praticamente per la sera a voi la panetteria è pieno. Ma questo l'ho preso che hanno aperto da poco, è molto buono. Ma già buono, io l'ho preso da Giano, qua a Carbonazzi, roba buona. Avanti fra, riprendi. Ehi, avanti ti. Sì, stavo digitando, cercando cose qua in zona, non so c'è quanta che... Stavo cercando di valutare qua se conviene più un container coibentato farlo. oppure qualche cassa di furgone che si utilizza sempre per trasporto, quel bentatto, tipo c'è la frigo. Forse ti conviene più quello del furgone, perché un container con bentatto ti costa una barca di soldi. Ah, ce ne sono da 500, da 400, no, non ti credo, no. È che più che altro insomma c'è il viaggio di mezzo e niente, non so quanto possa costare il viaggio, ecco. Però trovando un compromesso, nel senso che se c'è uno che fa rientro, magari è vuoto, lo porta, capito? Ma di quei container grandi che si mettono sopra il pianale? Sì, tipo anche quelli uso ufficio, che si usano in cantieri, cioè presente una porta e una finestra. Ma io non lo voglio grande grande, io lo voglio, penso, 4 metri per 2,50, ecco, giusto per fare quello che mi serve. E cosa devi fare? Sono radio? No, adesso mi andando fuori di casa. No. Mi serve per un'altra cosa, che tipo quella roba che ti ho dato stamattina, per poterla conservare non all'umidità, ecco. Buono. Quelli sono quei bentatti, anche se prendi una di quelle così da ufficio, sono quei bentatti, non so se l'hai mai visto, non ho visto, no, demolito, all'interno c'è un poliuretano, non passa niente, né caldo né freddo, nulla. Sì, ne dovrei avere uno, adesso vabbè, quando rientro ne parlerò con quello che sto collaborando ultimamente, dovremmo avere uno a bancare. Non so in che condizione sia, perché è tanti anni buttato lì, però abbiamo la possibilità di avere camion gru e quant'altro, quindi è che dove lo voglio mettere io, forse la gru non ci arriva, quindi è un po' un casotto trasportarlo, ecco, spostarlo. Ma ne trovi qualcuno più piccolo? No, vabbè, quello andava bene perché era piccolo, non era grande, era, mi sembra, 4,20 m per 2,50 di larghezza, circa 2,20-2,30 di altezza, quindi andava più che bene, vuole solo svuotato da poca roba che c'è all'interno. Noi lo utilizzavamo per mangiare in inverno, quando eravamo lì a bancare, in campagna, quindi è anche bellino, solo che con l'andare del tempo magari insomma vorranno cambiare qualche cos'è, qualche tavola, vorrà ripristinato il tetto, ma quello già è roba di poco conto. Figurati che noi sorso c'è ancora praticamente per uso spogliatoio, con tutti gli armadietti, c'è anche il bagno, ce n'è uno da 8 metri per 3 metri largo. Così è troppo grande, cioè. Mi serve metterlo in giardino, dove non mi dà fastidio, per una certa posizione, e che lo posso utilizzare anche per fare una casetta per insomma un bici dalla piscina, tipo la doccia, insomma una cosa del genere, quando non lo utilizzo per altre cose, capito? Esatto, dipendenze. Bene, trova, cerca che già lo trovi, già ce n'è in vendita. Avanti Luca. Sì, chi è che mi chiama? Chi è che chiama Sparviero? Chi? Paperino da Tempio, così hai detto. No, arrivi molto molto basso, molto basso. Ciao, buonasera, mi hanno ascoltato, non te lo dico, Tino, lo senti? Paperino da Tempio, mi sembrava, capito? Sì, l'ho sentito quando ti ha chiamato, lo sento leggero, ma non riesco a capirlo perché c'ho gli uccelli che cantano. Ma qua arriva basso, Santiago 2-3, nel QRM. Eccomi qua, va? Anche io qua. Sì, riprendilo, dai. Ma chiamami un po' Rick, sono qua, dai, che sto cercando questa roba qua. Se no non riesco a fare niente. Ehi. Andava, mi sono appena rientrato da fare la spesa, c'era un bel po' di gente. Non è 31. Noi siamo veramente in lockdown, quindi stiamo uscendo tutti oggi. Io l'ho fatto ieri. In lockdown siamo, lockdown. Sì, in lockdown. E ti dico che mangio un palato buono di ostriche, non so come tabrilli, ma comunque se non mi faccio la mano. Ma mi piace, schifo, no, bucci, mi devo preferisco più le cozze. E anche le cozze ho preso, però io sai che me le voglio mangiare, poco ne ho preso, ma 12, 13, una cosa del genere. Voglio assaggiarle pure, ma se riesco a aprirle, boh. A vedere quanto è pulita marina domani, sono una pinocchia. Prenditi un funciotto a punta, Claudio, ti metti uno straccio nella mano, aggrappi a lei e con un funciotto a punta si vede dove devi mettere il coltello, c'è la spaccatura un pochino più dolce, chiamiamola così, dai, perché secondo me è che dura. Questo non ha paura, Ticchia, non ha paura, mi ha visto un amico, si è entrato la punta del coltello da parte in parte, mi si è rotto il tendine, è una rottura di balle, e l'ho voluto comprare l'aria, cazzo, io non mi so come aprirli, boh. No, io sono pratico, ho aperto, ultimamente ne ho aperto due cassettine che le ha prese mamma, quindi l'ho dovuto preparare io. Ma per non farti male, io ho anche l'attrezzo per, non avresti detto, te l'avrei dato stamattina, l'attrezzo per aprirlo. Cioè, quando ero con te, poi sono tornato a casa, ne arrivita con una busta di gozzi, questa busta di cose, di ostec, un'altra po' di spesa, capito? Poi questo carbone ha preso due bottiglie di vino di quello opposto, ha detto ma non mangio i vappetti domani. Io non ci riesco a te, ho una paura allucinante a aprire quella roba lì, credimi. Bisogna stare attenti, dai, però già si vede, quando le impugni vedi la parte dove dovresti entrare il coltello anche, dai. Una volta che, anziché spingere diretto, devi far destra e sinistra, dai, mentre che entri la punta e poi lo entri appena e la forza appena a destra o a sinistra, già riesci a aprirla. Perché insomma devi avere l'attrezzo, io ho un attrezzo piccolino a punta, serve proprio per quello. Ascolta, ma non va bene quello di formaggio, quello piccolo che c'è la manico ciccione, quello lì? Sì, teoricamente anche quello va bene, basta che sia a punta e fino, perché non deve essere grosso grosso, eh. Ma se no un coltello a punta tipo patatese, però devi stare attento, perché la patatese ti si può chiudere. La patatese, mia madre venga. E qualche cacciavite? Cacciavite no, dai. La cacciavite era avanti e bu. Due patatese. Ascolta, ma esci di come a terra, lo sapri? Ma aspetta, scalpello. No, però con un coltello manico fisso ci vuole, non si deve chiudere. Comprate che si appunta e deve essere attento, giostrarci un po', dai. Deve fare un po' di leva, una volta che te la punta fai appena di leva e poi vedi come si apre. No, io ho appena di leva, mi feci un cucito, mi scelgo il dedo, ho appena di leva e balle. Poi tutta la prima, il resto segue. Tutta entrata la punta, no? E la ripeto, con 3x2,40, questo sarebbe stato l'ideale, che porta, finestra e qua è entrato, solo che a Roma. Ma a Roma ti costa 1000 euro per portarlo qua. Infatti, perché non costano tanto, faccio 300, 350, 500, ce ne sono anche da 1000, 1500, ora 100, però insomma, questo per dire è grandissimo, 800 euro, è lontano. Non so, non te l'avevo pagato l'azienda, perché gli uffici erano piccoli, i spogliatoi non ci stavano, ma ti dico, con riscaldamento, aria condizionata, bellissimo quello che c'è a Sorsa, molto molto bello, molto molto, cazzo, mi ha 8 metri, è lungo. No, non mi interessa, adesso stavo cercando, pensando di fare anche tipo quelle casette che vende Bricoman, quelle casette in legno. Io ho visto belline quelle, ne ho visto, ce n'è belline, ho visto l'800, 1200, vabbè, dipende da che misura la vuoi. No, ma sai cos'è, che il legno lo devi sempre trattare, queste si danno i barigarrini e ti dimentichi, il legno invece se non è ben isolato, si può marcire, tante cose ci sono, è più facile che l'animaletto entra dentro, capito? Sai qual è che mi piace, che forse tu lo conosci, noi ne abbiamo una in cantiere, infatti gli ho fatto la proposta, ho detto, ah, se va per 1000 euro te lo compro io, erano quelle, sono delle dei container verdi che attaccati al container hanno un faro dove c'era a suo tempo un'antenna dell'Enel, se non mi sbaglio. Sì. Li conosco perfettamente perché di quelli mi ha messo Masia, quello dei prefabbricati di qua, dove di Italia, ne ha messo uno a Santa Maria Colinas per rilevare la cosa atmosferica. Quello era l'ideale, perché quello lì, se non credo che siano tutti, però questo che ho visto io è su un carrello, quindi tu lo puoi anche trasportare, lo puoi mettere dove cacchio ti fa di piace, è rialzato da terra, ci sono tre scalini per salire, quindi c'è una porta bella massiccia con quattro finestrini laterali ed è bello, è coibentato, sta benissimo. Sì, guarda, ce n'è uno, non so se l'hanno tolto, dove è, a Budapest, non mi ricordo, vicino al coso alla corte d'appello. Quello lì per dire, a suo tempo ho fatto un lavoro lì in zona, il padre di Massimiliano, quello che sto parlando io adesso, sarà portato, diciamo, in cantiere, poi non l'hanno più voluto, sarà tenuto lui, ed è lì buttato, cazzo, detto, io dammelo a me che mi serve, devo fare cose. Quelli sono buoni, quelli sono veramente buoni. Non sono a conoscere qualcuno, perché mi stava spiegando mio zio che le celle frigo dei camion dopo 3 anni devono fare una revisione, quindi fanno la prima revisione e magari la passano tranquillamente perché 3 anni è nuovo il mezzo. Dopo 6 anni invece devono fare una revisione a Roma, quindi la spesa diventa troppo grande. Cosa succede? Che anziché fare la seconda o la terza revisione che sia, li svendono e se ne comprano qualche di nuovo, capito? E rifanno tutto quanto il giro. Devi chiedere lì a Pedagnetta, dove per capirci, dove c'è Capannone e Trova Brucca, lì c'è quello dei surgelati, se c'hanno qualche cielo a frigo buttato che non usano. No, non so neanche cosa c'è lì, surgelati, chi stai dicendo? A quelli di Panapesca, cos'è? No, c'è Saturnurgia lì. E dopo rimane, che è lì, vabbè, lo stavo facendo con Luca, io volevo. No, scusami, dove c'è, sto confondendo io, quello lì a bandiera gialla. Dove c'è Bricomen, dove c'è la pizzeria, come si chiama? Hotel Gate lì. Allora, Bricomen, dove c'è la pizzeria, cosa c'è lì? Cosa vendono sui gelati? No, lì non c'è un gommista. Ah, più avanti ancora forse. No, lo vengo entrando, lì c'è la cosa delle salsicce di Murgia, prima la sette Murgia. Provare se c'è qualche camion dismesso, quelli sono furgoni, capito? Se ne capita, chiedo lì, vedo un po' quanto sono i costi e poi vediamo. Sì, perché chi ha appunto questi mezzi così può sostituirli, cambiarli e ne toglierla, c'è la frigo. Adesso provo a chiamare anche a Walter se sa qualche cosa. Provo a chiamare a lui magari, capito? Ne sa di più. Va bene, che mi sposto da qua. Sentiamo dopo. Ehi, già sono in ascolto, io dopo. Ciao. Attento, Britella, chi è? Pannello Cogiomiaio, non ho mai aperto, non so ma con cui stai parlando. Praticamente cosa devo fare? Fammi una foto e mandamela su WhatsApp, no? Ci metti poco, no? Mi fai la foto proprio sopra dove hai toccato tu, dove cererei questa cosa e me lo mandi su WhatsApp, scusa Aspetti, Pia, fammi la foto e mandamela, guarda che la mia è nuova, sottolineo nuova, c'ho anche il microfono da tavolo suo, è il microfono normale, cavo alimentazione a 12 volte, cavo alimentazione originale a 220, manca solo la scatola, ho anche il manuale, figurati, il mio è nuovo, e poi te lo faccio sentire col microfono da tavolo, capito? Va bene, numero, metti il telefono sopra dove hai toccato tu, me lo mandi su WhatsApp, così me la faccio anche io, glielo offro anche io l'LC, perché anche quello è basso, capito? Questo è l'Inuit 294 con l'MB più 4. Avanti T. Tino. Tino. Ciao, dammi il controllo con il 4000, come sto uscendo? Bene, bene, bene. Figlia, aspetta adesso, non mi ricordo manco qual è il record addirittura, perché li ho messo soltanto nel 2009. Claudio! Adesso sei tutto fuori frequenza, Antonio. Cazzo, ma lascia le cose come stavano andando, stavi andando bene. Cazzo, di mettere l'eco, buon dire in culo, ecco. Aspetta, che c'è il pulsante, siccome... E con le scuole messe, sono al 2009, aspetta. Sono andato 10 km più avanti. Dovrebbe essere questo. 1, 2, 3. E infatti questo qua. Adesso è attaccato. Lascialo staccato che è meglio. Dimmi, chi è che mi ha chiamato? Ma è orizzontale, sì. No, guarda al baracchino, sono verticale col 294, il baracchino, 4 watt. Ok, lascia, continuate pure. Adesso è assottato. Cazzo, non dalla radio, non te ne accorgi. Ma era il segnale che non mi convinceva. No, la radio già è buona. Buonissima, sta andando con l'MB più 4 e il 294 della Inuit, dai, non ti preoccupare, 4 watt. Luca, 936 è come 4000, quindi vedi tu. 930, che Claudio mi dà 930. KK in verticale sono, però passa che la devo tirare su ancora, capito? L'ho piazzata ma non l'ho tirata su ancora. Sì, sono qua è 9.30 e con picchi positivi va anche avanti, non su. E anche qua la stessa identica cosa. Sono due cose di 4.000 in ricezione e trasmissione, quindi se la guarda cosa, l'unica cosa è, vabbè, l'ho fatto 3.009 la verità, ma comunque con le 4.000 cosa sto usando adesso? Perché c'è l'effetto ecco. Gli ho cambiato solo la mascherina, infatti dove c'è scritto canale 9 e off ci sono i 10 clearance che in pratica sono nel Connex 4000, me l'ho dimenticato completamente, infatti non lo usano più. Qui c'è anche Gianni Capri 2. Eia, ciao Gianni. Eia, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, tieni conto che io sono con 4 watt, sto andando con l'Inuit. Tornando con l'Inuit, quindi il segnale potrebbe aumentare. Ascolta, il trimmer qual è? Quello grande o quello piccolo proprio attaccato al condensatore? Lo piccolo davanti al condensatore proprio, davanti, ho capito, va bene. Grazie mille, così me lo aumento anche io l'LC di quel pony perché è molto basso. Perché mi ha fatto le connessioni, Luca, però microfono da tavolo non spinge come deve spingere, capito? Va bene. Avanti, Luca. Spagazione c'è stasera, strano, Gianni Capri 2, barrato. Ascolti, se non vai più qua, la verità, quindi in questo Condex 4000 che sto usando io, vabbè, io trovo che affrontavo io sul originale, io ho messo quello del 2009, quindi devi paragonare che sono uguali, capito, un'unità che serve un 2009 con l'eco, va, chiamalo come vuoi. Deve stare facendo con la regolazione che gli hai detto tu senz'altro. Sì, 6.5 è perfetta, voglia. Sì, l'avevo già aperta per vedere com'era fatta dentro, è nuova, mai stata fatta la riparazione, sta facettata, tutta ben messa. No, adesso non apro niente, domani mattina mi metto con calma, adesso ne ho voglia. Domani mattina con calma la stacco, mi metto sul tavolo. E la faccio Gianni, grazie. Ok, va bene. 5 perfetta, buona. Se grazie se non paga nulla già subito sì Claudio. Ma se a pagare tutti posso dire uno più. A me non mi è mai regalato nulla di sua vita comunque. Grato te, va. Ti regalerò tutto Gianni. Grato te. Io me lo siete comprato la roba, anzi, quando me la stavano regalando lo siete pagato, ho detto, no, però non lo voglio, ho detto, non sai che magari puoi cambiare idea, Sapevo che aveva cavato, volevo volare un BV 2002 l'altro giorno, ho detto no, non mi voglio, ho detto. Con le valvole nuovo, sai cos'è dire nuovo. Ho detto no, no, non me lo posso fare nemmeno, ho detto, poi non ha giocato, ho detto che mi stuono, ho detto il condensatore in mano. E vabbè, cosa vuoi che dica io? Mi giocava, mi ha regalato due palmari marini, nuovi, in scatola con le distruzioni di tutto, poi mi ha regalato uno UEU per la macchina, quello posso dire, perché lì non ne fregava niente e basta. E poi io, cioè, non me ne frega niente, nient'altro, ce l'ho conservato, la verità, conservato dentro le... Da una parte, sono nuovi, e più c'erano due VHF che mi hanno regalato, due VHF normali, della Intec. Cosa gli è successo? Di panico gli è venuta alla gola. Adesso sì, tutto. Infatti mi ha toccato, quanto succede? Una crisi di panico alla gola, gli ho detto. Beve appena di acqua, evidentemente c'è la bocca asciutta, la gola asciutta. Oddio, poi avete un goccio d'acqua, vai più a dire, che non c'è più voce. Boh. Adesso fa poco, sembra uno di quelli che si mette a cantare, c'è detto un... Che gli manca la voce a un certo punto, dice, no, non c'ho più le corde vocali, no, non posso cantare stanotte, rimandiamo il prossimo mese. Gappa, io stando con l'MP più 4, ho comprato un nuovo, non ce l'ho le balle, quell'altro fischia, allora l'ho tolto, ho messo a parte, ho comprato l'MP più 4 nuovo da Fuggiaro, senza Ducallo, senza Vallinuta, bene Chantone? Sì, ho voglia che esce bene, è perfetto. Ha voglia. Ne ho pigliato 3 MB più 4, figurati. Sono svenduti. A un certo punto, quindi no. Non ne prendo altri per il momento. Quando mi capiterà l'MB più 5 come si deve, non come mi è capitato a me, che poi se l'aveva preso o cosa. Quel ragazzino che fa la baracchina, poi se l'ha comprato quell'altro a metà prezzo. Quindi a un certo punto adesso aspetto. Quando ci sarà il MB più 5 come si deve, me lo prendo e se la via in Napoli. No, questo me l'ha fatto avanti Antonello, c'era anche Marzia, mi ha regalato la batteria da 9 volte, poi mi ha fatto anche lo sconto, l'ho preso nuovo, almeno è nuovo, non è toccato e non lo tocco, va bene così, con questo Nite è una canonata. Giulio, perfetto, esce a belle luci, si cazzo i microfoni modificati, fischiano, fanno un casino a Gesù Cristo. Vabbè, la capsula solo gira, ce l'ho messa, ti serve, me la chiedi quando vuoi, se no di quelle della Marrone, della piazza con la Marrone, originale, c'è anche la pacchetta addirittura, quella metallo, quella conservata del MB4. Gliela fai così, gliela saldi e sei tranquilla, non è che devi fare altre... Gliela metti nel coso suo originale, cosa vuoi che dica io? Io di solito li modificavo, toglievo la placchetta, poi pigliavo e mettevo la capsula per dire del videocitofono, quello che era, eccetera, eccetera, con la verde riusciva benissimo per dire... anche nel salerta eccetera eccetera, ma comunque sia, se ti serve la placchetta ce l'ho ancora, mi sembra, da una parte. Appena la trovo ti chiamo, così gliela piazzi in quell'altro che c'hai, ti do la sua capsula originale con la moloncina, gliela applichi e sei più tranquillo. E ci conferma, no, questo è originale. Questo è originale e ti dico che va alla grande, va bene così. Gappa, Luca. Adesso faccio un giretto a Lidl, mi prendo quel trapano trasanatore per fare i buchi, perché c'è un trapano normale e un buco, manco il forattino, non so l'altro. Devo fare cazzo, se non faccio forza a bucare, manco quello buca. Quindi a un certo punto impiglio quello lì, 34 euro, 90. Adesso faccio un giro e lo prendo, così sono più tranquillo, ci sono le punte intanto. Ehi, ehi, va bene, dai, io sono qua comunque, fate. Vabbè, come rientro ci sentiamo dopo, ok, adesso faccio un giro da lì. Se c'è, allora me lo prendo e a me lo faccio buchi come si deve, cazzo, non le balle piene, cazzo, fare i buchi col troppo, fare me do... Sembra che sto bucando, cazzo, ferro, cazzo. Quelli da 12 euro che venivano qui non servono un tubo, non mancavano nulla, ci volevano quelli modello vecchio che facevano la gara e bucavano immediatamente, capito? E quindi mi piglio quello di 34 euro, va a far culo, costa poco e ne vale anche la pena. Ci sono qua. Vabbè, da dopo, da... Sono contento che stia ancora uscendo questo apparecchio qua nel 2009, cioè con le 4000. Costato il mio del 2009, va bene. È come avere, per dire, un 2009 modificato con l'eco. Non li metto lo smitter la luce blu, anche il display, ma più o meno sarebbe uguale. Manca solamente l'eco... quello modello, l'altro modello e basta, non mi manca altro, ma questo va bene così, così com'è, un'altra panza. E l'uovo l'uovo. Gianni, sono qua in quel rix, se c'è bisogno di qualcosa. Attento, pedivella. Luca Master. Ehi, e chi è? Franco sono. Franco, buonasera. E chi sei, Tore? E lui. Tore qua, sì. Arrivi fortissimo qua, sicuramente siamo vicini. Pensa un poco, quando siamo vicini, già che arrivo forte. E io sono qui vicino al Sacro Cuore, dai, zona Monte Basso. E tu dove sei? Vicino al ponte. La bretella. Ah, quindi non è che siamo proprio attaccati, dai. Diciamo che sei di fronte a me, verso il portatore, dai. Rispetto a me. Come ci arrivo? Bene? Perché in macchina sì. No, sono fermo, sono a casa. Allora sono un 100-150 metri. No, sa di più, dai. Sanno, ma 500 metri, guarda che di più. Linea d'aria. Linea d'aria è molto più vicino. Non lo so. Comunque mi dai il controllo, sì. Adesso sono un po', diciamo, con un po' di vitamine però, 9.30 sì. E in questo non me ne dà di più. E anche tu quasi sul 30, ma l'ho un po', diciamo, starato come smite, perché prima era troppo avaro. Qui più o meno l'ho regolato col segnale degli altri, dai, a parità di antenne sempre. Ma questo lo smitter già è abbastanza buono, però più di 30 non va, rimane fisso lì. No, questo sale ancora, però è già un bel segnale. Adesso sono invece sono liscio, è calato di moto? Sì, 9.20. Sì, 10, dai, sì, 10. Bene, non c'è nessuno, Tore? No, aspetta, stavo chiamando, dovevo chiamare Gian Maria. Attenzione Gian Maria, se ci sei. Buonasera. Buonasera. Ciao Tore, sono la tua amica. Ok. Franco, sì, sono io. Ciao Franco. Ti fai applicato, sì. Interrompito. Come sei arrivato a te? Qua anche troppo forte, secondo me. Puoi anche abbassare. Così va bene. Sì, si va benissimo. Il segnale è sempre buono. La radio. Vabbè, per Sassari sono positivo, dai, io sono fuori Sassari. No, devi bene, sicuramente c'è un bel canale per me, sei liscio? Cappa, liscio. Sì, ho 9.20, ma sempre ripeto, questo smitter prendilo vuole prendere cautele, non so se sei giusto. Ho 10 watt dell'apparato. Aspetta, vi tolgo 10 watt. Ecco. Adesso ho 5 watt. Adesso si è sceso parecchio, segnale di 6, 5-6 con picchi molto positivi, però la radio è sempre buona. Io adesso sto uscendo con 4 watt dall'apparato, l'ho abbassato per stare con l'apparato. Avanti, Tore. grazie, ciao Tony, ben sentito. Anche io ce l'ho con l'amplificato. Capo, già hai fatto tutti bene, dai. Ho messo il nuovo 10 watt, che dà l'apparato e basta. Bene, bene. E allora, già amplifica bene questo carne, dai, il suo presidente. No, no, amplifica, amplifica. Io lo sto tenendo basso, questo, io lo sto usando cucciure. Però ce l'ho a 5-6. E invece il Mike Gain ce l'ho a poco più di metà, da 3 quarti. Capo, io c'ho 3 quarti il corner e 3 quarti il Mike Gain. Sì, più o meno. E la mia è amplificata oppure siamo nella radio normale? No, radio ultima, super, va benissimo. Conosco anche lo Shure, con l'auto grigio. Quello è un po' paragone. Lo conosco. Alberto, che si dice? Io già perché si dica. Che si tira avanti giorno per giorno. Io mi sto cercando la fascia per la schiena, l'avevo pagata a 110 euro, l'avevo ormai messa, adesso però me la devo portare con me perché devo partire per 13 a operarmi e me l'hanno chiesta. Devo giocare la valigetta così mi porto un po' di roba. Ma qua o fuori? No, Ravenna, io non ci vado a operarmi in Sardegna, non so quanto. Per lei nel disco qua rovinano. Sì, qua c'è se rovinano, però a Cagliari no, a Cagliari ho visto che lavorano bene. No, Torre, ti lo confermo mille per mille. Mio cugino ha un ere nel disco come il mio, a Sassari l'hanno ingrimbato, a Cagliari l'hanno maciullato, è andata a Monza, non c'è più niente, perfetto. E gli hanno detto a Monza, chi è che l'ha maciullato così? Tecnica si usava negli anni 40. Pensa un po', lei è meglio così, allora se te ne vai fuori è meglio. L'hanno tagliato, penso io, ho messo una placca al titanio, l'hanno ingrimbato. Cosa che questo medico è venuto da Brianza per visitare a me. Infatti mi opera lui stesso, è conosciutissimo. Si chiama Fabio Tresoldi. Infatti, meglio così allora. Meglio così. Vado a ospedale privato, vicino a Ravenna. Avanti, qua. Insomma, non sarà una passeggiata, però se le... Che titoli c'hai tu? Non ho capito. No, dico, non sarà una passeggiata, però se... da fare, bisogna farla. Che sintomi hai? Io faccio 10 metri, mi devo sedere per forza, perché mi fa male troppo. Dal sedere tutta la gamba destra fino a sotto il tallone. Ho perso anche, diciamo, la sensibilità. C'ho 3 ernie, 2 piccoline che la danno fastidio, ma la grande è vicino al canale stretto e prende sul nervo. È quello che ti fa addormentare tutta la gamba. Forse sto messo un po' meglio, allora ancora non sono più di peli, però anch'io ho troppo parecchio di schiena. Anch'io uso il bustino, specialmente d'inverno, a volte sbaglio movimento, vediamo bene, dai, che tutto vada bene. Comunque confermo che qui Sergio Volentieri sono sempre tutti con lui. Anche a mio padre, quando era ricoverato, il suo allenatore, volevano tagliare non so quante costole per togliere il polmone. Invece è andato fuori il continente, vicino a Gorizia, e addirittura il polmone è ripreso a funzionare. E quindi oggi si trova di nuovo con 2 polmoni, figurati. Lì lo volevano tagliare tutto qua. Che ci sono manchi? La mia dottoressa, io ci sono oggi per un'impegnativa, ho già il biglietto della nave pronto, perché volevo andare in aereo, ma c'è soltanto un aereo il giorno 15. Io il 15 alle 9:15 dovevo essere all'ospedale, come faccio? Auto prende per forza a partire il 13, da Umbria Livorno, poi Livorno faccio Bologna, Bologna Ravenna, parto un po' prima, così almeno, nave diurna. Ti rovinano, la dottoressa mia si è meravigliata, con me si opera fuori, perché non mi fido di Sassari o Sardegna, punto. Quindi vai in macchina, va? No, negativo, c'è macchina. Andi con i mezzi pubblici oppure qualcosa? No, mezzi pubblici, tranquillo. Prendo taxi, lo devo prendere, non mi interessa. Quindi è una cosa per la salute che a me mi interessa molto, sono 6 anni così soffrendo. Partiglia, iniezione, in aggiovato, pacca di dai. No. Mi sono deciso, basta. Avanti, Tore. Infatti fai bene. Ma quei chibi, sai che ti raccontano bene tutti, no? Che... è andato un amico mio, era dritto e aveva tutto pigiato. Beh, ci vuole un po' di fortuna anche. I cautiri erano bravi qui a operare, però anche lì qualche fatica che lo fanno. Da poco mio collega è stato operato al piede, già parecchi mesi, e hanno ricostruito la caviglia perché c'era staccato il malleolo. C'è una placca e qualche vite, però ancora non riesce a camminare bene. Tu pensa ancora che com'è fatto anche Emanuele? Anche lui fa lo stesso intervento? Sì, però lui è stato che giorno in più, ti spiego perché. A parte le linee del disco, le devo mettere anche due stabilizzatori nella colonna vertebrale. Dai, quindi si bloccano qualche vertebra, dai, il sistema la stabilizzano. Sì, sì, in effetti, lui è poco aiutato, ormai, fregate, tranquillo. Partiamo insieme, ci operano insieme, ci ricoverano insieme. Se vede come cammina, poveraccio, Emanuele, ma nei giorni, no, no? Non lo conosco, però, ci credo, conosco i dolori alla schiena, quindi ho a colleghi che anche loro soffrono, non è una bella cosa, e non vede da parecchio, quindi un handicap preoccupante, dai. Speriamo bene tutti, hanno nuovo, bisogno, poi c'è anche compagnia, anche quello aiuta ancora. Mio figliuccio, ma parla anche Baracchino, forse l'ha sentito, ma non è Ginko. Sì, sì, l'ho sentito, però mi ricordo anche il stazione del figliuccio, che molti già lo chiami, anche quando per qui. Però, ripeto, non lo credo di non conoscerlo di persona. Tra poco anche lui. Avanti, Tom. Meglio così se si offre anche lui. Almeno così può riprendere anche a lavorare piano piano, ma qualche cosa può fare. Non mette prima che non poteva fare nulla, ma come già si pulia. Allora, poveraccio, lui sono una cammina, guarda. No. Prima stamattina è andato lui dal suo medico per fare l'impegnativa. E a quanto pare gli ha detto, ma non ti operare, già ti guarisce da solo, vai tranquillo. Ha detto, ma noi, cambiati dottore, l'avrei sputato in faccia. Allora, io ho letto anche su internet, eccetera, e poi me l'ha confermato anche il dottore. Se non ti operi, continua ad andare nel tempo, praticamente se arriva il midollo osseo, tu si deve a rotelle. Infatti è così, lo chiama al medico, quella che c'ho io è una dottoressa, e quello che gli chiedo mi fa. Anch'io sono una dottoressa, ed è pure un uomo. Niente, stamattina ho fatto sia l'impegnativa per il ricovero e l'impegnativa del RM, risonanza magnetica, anche se ce l'ho fatta a giugno, però loro la vogliono fresca, capito? E ce l'ho rifatta. Sono esente perché ho C03, quindi sono esente di tutto io. Tu hai finito di lavorare, vero? Hai già in pensione? Che Dio ti senta, no, sto ancora lavorando. Dovrei andare, diciamo, io ho fatto la domanda di pensione, ma il patronato di merda, sono la frase, si è sbagliata, ha fatto la domanda per i miei contributi e siamo da settembre a aspettare l'esito. Ho telefonato all'Inps, ho fatto da loro, ancora non c'è la domanda di pensione. Quindi la devo rifare, adesso faccio un'altra domanda all'Acri, quello che c'è qui a Roma, e la faccio. Allora, per la patologia che ho, 75% di invalidità automaticamente, perché sono anche cardiopatico, ho recuperato 8 mesi, che dallo Stato 2 mesi ogni anno, dal 74% di invalidità in su, io ne ho 75, quindi ho recuperato 8 mesi perché me l'ho riconosciuta nel 2016, quindi. Perché mi ricordavo di un procinto qualche mese fa. Pensavo che fosse già tutto fatto, beh, c'è ancora un po' da aspettare. Vabbè, non fa niente, tanto il lavoro che faccio. Non posso levare più 12 kg, quindi tranquillo, non c'è problema per me. Il lavoro che faccio non mi comanda nessuno, quindi faccio tutto io. Faccio pochi lavori e ben fatti, punto. Fretta non ne ho, infatti anche il coordinatore mi ha detto, io non ti dico niente, quello che puoi fare fai, tranquillo. Oramai hai trovato gente in gamba, dai. Beh, ci sono già 23 anni, capito? Io lavoro in tutte le scuole superiori, lavoro per la provincia. Cosa fai qui? Eseguo manutenzioni, impianti elettrici e idrici. Nelle strutture pubbliche, dai. Gamba. Allora, è un bel lavoro, no? Sì, 7.30, 14.10, timbre, ciao, la sera sei sempre libero. Avanti, Tore. sto guardando il tempo del televisore che a me tra freddo e neve, bassamente temperatura forte per Capodanno. No, domani è messo parzialmente nuvoloso, ma niente pioggia, eh? Ma non ti ho detto pioggia, tra freddo e neve. Ah, beh, c'erano 5 gradi stamattina, Siamo in inverno, dove? Siamo a Cusa Capodanno, non so se mi spiego, scusa voi, non siamo d'estate, no? Bisogna coprirsi bene. Sì, ma magari ne vuoi a che metro, buru. Già mi attrezzo io, già sei attrezzato. Ah, è un muro, E poi, ci ha fatto già 3 tampone sierologico, quindi sempre negativo, meno male. Stasera sono preso un pezzo d'agnello lì a MD, vicino a casa, poi spostato a me di più di un metro, c'era questa signora Biolla, e siamo lontani. Ascolti, innanzitutto io sono negativo, prima base, c'ho il foglio in tasca, ma ve lo faccio vedere perché dopo come risponde. E poi, dato che lei parla tanto, ha una mascherina che la sta usando 10 volte, perché si vede che fa schifo, deve usare la FFP3, come ce l'ho io, o come ce l'hanno altre persone, non quella c'è lì, per carità. Una mascherina fa via chi, fa da pavidà, ma... Allora, è una che non si vede qualcuno, stava fermata di Sirio a Barcellona, ma questo ghiacchivizio, questo colorito, per carità. Oh, ma stamattina mi sono trovato un po' male perché dovevo andare in bagno, ma mi prendo un caffè e poi vado in bagno, manco un marabiscio, che vergogna, che sono tornare a casa per andare in bagno. No, tutto chiuso. Allora ho capito, solo qualche locale pubblico, tipo supermercato, che abbia il bagno di terra, se no i bar. È strano, mi hanno confermato che stamattina il mare di Rosello era aperto, e anche quello dal corso. Magari vendevano pasta, roba così, però non possono offrire niente al bar, credo, è giusto così. Che corso il caffè lo portavano fuori. Sì, con l'eva che ha fatto te lo danno allungato. Avanti però. No, c'è quello giù al corso che c'ha il gabbiotto fuori ed è riparato lì. Lì te lo portano fuori. Per me avrei chiuso tutto. Tutto. Almeno sino a gennaio, dai. Ma anche loro devono lavorare, non l'hanno dato nulla, dice. Non l'hanno dato, purtroppo anche loro devono lavorare. Questo fa dalle 7 del mattino sino alle 18. Alle 18 lui chiude. Però c'è c'è il gabbiotto che è mezzo aperto, a metà di cose, mezzo aperto, eppure serve il caffè, te lo serve fuori. Vabbè, devo andare in bagno e gli da canzone. Vabbè, sono tutti che hanno il supermercato il bagno. C'è la Carrefour, il bagno all'interno, poi c'è la Lidl, il bagno all'interno che puoi andare, capito? Sono pochi. Ma sta male che entro sul mercato, vado in bagno bovinando, e cosa da? A portare un uomo, donna, va male. Avanti, fra. Ho capito, lui non sa niente che appena ha preso il caffè subito deve scappare in bagno. Noi l'altro giorno eravamo al Ghiero e abbiamo usufruito di quelle H24, dai. Siamo andati lì e abbiamo fatto colazione, così, al volo. Ah, quelli aperti 24 ore, capito. Sì, che te le chiedi, dai. O c'è la chiavetta o c'è il sito lì a ricaricare. E abbiamo fatto quattro lì, ma era tipo le 5, forse anche più, le 5 del mattino lì dal Ghiero. Però, ripeto, erano tutti chiusi i bar, era di la domenica dopo il capo tempo. Va bene, dai. Mi ha fatto piacere 3-4 chiacchierisse con voi, che adesso mi devo preparare un po' di roba, perché devo cenare, mi guardo anche il telegiornale. Ok, ciao Franco, state bene, ciao Tore, buon proseguo, ci sentiamo alle prossime. Ciao ciao. Ma dai, bocca al lupo per tutto e alle prossime, cerchiamo di tutti in ottime condizioni, in forma. Avanti Tore, per i saluti. Ok, ciao Tony, ci risentiamo. Alle prossime. Buon viaggio è tutto. Ok, se non ci risentiamo. Va vabbè, io ne approfitto perché mi stanno chiamando. Ci risentiamo fra, alle prossime, anche a te, se tutto va bene domani. Ok, ciao Franco e ciao Tonino. Ciao, ciao, e crepi un po', ciao. Cappa, dai, buonanno, se lo dicono tutti, si parla tutti e due. Ok, un abbraccio a tutti e due. Ciao Tore, anche a te, buon pomeriggio, io scappo per... Era pronta la carica, ho quasi, dai. Di nuovo, ciao a tutti. Ciao, ciao, buon carica e buonanno, se ci sentiamo, ciao. Ciao, io mi risento domani, ok, comunque buon anno anche a te Tony e ciao a Franco. Ciao, ciao. Hola. Davvero? Coca. Massimiliano, non lo dico di non dire un problema. Cappagatta, e ma domani non lavori a tu, vero? Domani si lavora, si travaglia di più di latini. Ah, ecco, ecco, ah, è vero, voi già potete aprire, sì. Domani fino alle 6 però. Adesso si parte da mattina, devo uscire da mattina presto presto. Domani mattina mi devo pisare di 5 e mezzo, mi devo pisare a farmi tutto quello che mi devo fare. Poi si passa a travaglio alle 7, massimo alle 7 devo essere già su perché devo caricare il cambio, cioè il cambio della fiamma. Ecco, ecco, capito. E vabbè, questo è il vostro periodo, là. Cappa, e allora si abbiglia in culo. E cosa ti cucini domani notte? Ah, sarà fa lo zampone, fa. E ti piace a te? Sì, che mi piace. Vabbè, vabbè, auguria. Cappa, in più va giù 3-4 ampulli, dai, che mi aspettano. E di cosa? È un po' di spumante. La paffetta un po' di casino. Cosa siete, voi e basta? Ah? Da solo sei domani? No, sono con Sara. Ho capito se con Sara, ma siete da soli. E chi ci viene qua? Chi viene? Ho detto chi ci viene qua. E cosa ne so qui, boh?